come ci presti, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello scherno degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quanto ti sbagli, credimi. No! Cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco, ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri. Procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Quali facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani, abbiamo planetari tra le ossa parietali, siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno, lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanita in un sonno incerto, poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso, ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso. E mi diresti, guarda, tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No! No!